2024 di Enrico Pagliarini. Oggi salutiamo subito Fabio Cantadori, che da un po' non ci faceva visita in due settimane. Vabbè, sono perso nelle settimane. Questa è la puntata del 6 aprile 2013. Fabio Cantadori si occupa della parte tecnica, Giorgio De Luca ci aiuta in regia, così come ci aiuta durante la settimana. Poi nel weekend scompare Anita Panizza, che salutiamo naturalmente. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Ma visto che per alcuni la posta elettronica ormai è desueta, potete utilizzare anche Facebook, la nostra pagina, quindi andate, cercate 2024, o anche Twitter, cercate R24_2024, cioè l'inverso, 2024_R24, oppure E_Pagliarini, Enrico Pagliarini, basta cercarlo e ci trovate facilmente. Avete altre due possibilità, anzi la prima, quella che preferisco sempre, è il nostro numero verde per parlare con noi, in modo particolare di scuola digitale. Per questo questo è il tema principale della seconda parte di 2024. Il nostro numero verde per parlare con noi è 800240024, oppure, ed è l'ultima indicazione che vi do per comunicare con noi, gli sms 349-238-6666. Iniziamo da una notizia che riguarda Telecom Italia, che ha confermato i contatti con la cinese Hutchison Whampoa, che in Italia controlla H3G. Scrive Telecom: sono intercorsi contatti preliminari, precisa il gruppo in una nota, per lo studio di una possibile integrazione con 3 Italia. Il tema sarà oggetto di rappresentazione verso il CDA, che è il consiglio d'amministrazione, nella riunione dell'11 di aprile. Allora, così scrive Telecom Italia. In questi giorni ho fatto un giro di telefonate, visto che non c'è stata certo la conferma di Telecom, ma di questa notizia si parlava da un po' di giorni, da un po' di tempo. Allora, ho fatto alcune telefonate, ho parlato con alcuni esperti del settore TLC. Allora, devo dire che molti mi hanno detto: beh, ancora un po' troppo presto per fare considerazioni su un eventuale accordo, ma certamente, molti lo hanno detto, è bene, non dico allarmarsi, ma comunque stare con gli occhi e le orecchie bene aperte ogni volta che un'azienda così importante e strategicamente sensibile come Telecom, anche se è un'azienda privata, ricordiamo che Telecom comunque controlla la rete d'accesso ad internet. Allora, tutte le volte che un'azienda del genere entra in trattative con possibili partner stranieri, beh, insomma, è meglio tenere d'occhio la situazione. Già oggi Telecom ha una forte presenza degli spagnoli di Telefonica, e molti non pensano, io stesso non penso che sia una buona notizia che un ulteriore pezzo di un'azienda così importante vada in mani straniere. È vero, esiste il mercato, ma esiste anche l'importanza strategica delle aziende per il sistema paese. Senza poi pensare a quello che commentiamo spesso a 2024, e cioè che in modo particolare gli Stati Uniti, ma anche alcuni esperti europei, accusano mese dopo mese la Cina di spionaggio industriale. È ovvio che Telecom ha necessità di nuovi capitali, ma molti si domandano, e io mi domando, possibile che non ci siano capitali italiani pronti ad essere investiti nelle reti in cui passano le informazioni, che sono oramai la linfa vitale della nostra economia? Meditiamo sulla nostra base di 2024. Adesso parliamo di Facebook, perché questa settimana è stata la settimana di Facebook Home. All right, welcome and thanks for coming out today. Today we're finally going to talk about that Facebook phone. Or more accurately, we're going to talk about how you can turn your Android phone into a great, simple social device. Allora, questa è la voce di Mark Zuckerberg, che è il fondatore, il capo, il numero uno di Facebook. Giovedì sera a Menlo Park, che è la sede di Facebook in California, ha presentato una nuova applicazione che trasforma un telefono Android. Infatti Zuckerberg ha detto: beh, stasera parleremo del famoso telefono Facebook. In realtà non c'è nessun telefono marchiato Facebook, ma un'applicazione che trasforma un telefono Android, perché stiamo parlando di telefoni con sistema operativo Android, in un telefono social, al cui centro c'è Facebook. Allora, questo era un annuncio molto atteso e molto importante. visto il miliardo di utenti che Facebook ha nel mondo, e quindi è un annuncio che riguarda milioni di utenti, tutti quelli tra questo miliardo che hanno uno smartphone, o meglio quasi tutti quelli che hanno uno smartphone Android. Allora, ieri sono andato alla redazione, che è al piano di sopra, non è lontano, del Sole 24 Ore, e ho sbirciato un titolo che vedrete domani su Nova, all'interno del Sole 24 Ore. Allora, per questo, partiamo proprio da questo titolo. Saluto Luca Tremolada, un collega del Sole 24 Ore di Nova 24, benvenuto a 2024. Buongiorno Enrico e buongiorno agli ascoltatori. Perché avete scelto questo stuzzicante titolo, un'OPA su Google? Beh, insomma, OPA è un'offerta pubblica d'acquisto, sì, come mi insegni. In realtà quella di Google, di Facebook, è proprio un assalto alla diligenza. Cioè, sale sul telefono, sistema operativo più diffuso al mondo degli smartphone, per assaltare quello che è la gallina delle uova d'oro oggi delle tecnologie. Oggi, come tu mi insegni, gli smartphone sono l'oggetto del desiderio. Come fai a entrare lì dentro? Creando, e questa è la grande novità di Facebook Home, creando un'interfaccia completamente made in Facebook. Ecco perché, allora spieghiamo che cos'è Facebook Home. È di fatto un'applicazione che uno scarica, però non è solo un'applicazione. Allora, Zuckerberg qua avrebbe detto che non è esattamente un'applicazione, ma una famiglia di applicazioni. In realtà noi che siamo un po' tecnologi la chiamiamo un home screen, cioè è un'interfaccia che si spalma sopra Android e fa sì che tu ti riesci a muovere all'interno del social network, guarda caso di Facebook, in maniera più agile, ai tuoi contatti, puoi mandare la chat è bellissima quanto si è capito, non l'abbiamo ancora provato perché uscirà il 12, esatto, però prossima settimana. Pare molto interessante la funzionalità della chat, gli aggiornamenti, le notizie, per cui insomma resti nel mondo di FB ad ascoltare i tuoi amici, a tenere i contatti e poi puoi anche usare l'interfaccia Android. Sì, guarda, allora, un po'. Esistono delle altre applicazioni simili che in qualche modo si impadroniscono del telefono, cioè cambiano l'interfaccia principale, però qui stiamo parlando di Facebook che ha una potenza di fuoco pazzesca. Uno, e poi di solito le altre applicazioni non in certo senso coprono tutto, per cui tu per uscire o la metti in background oppure la devi spegnere. La novità di questa, che non è un'app ma una famiglia di applicazioni, è quella che si mantiene sopra Android, per cui tu potresti continuare, tu hai in mano un reale fotofonino, anzi telefonino social, sì, fonino, sì, non so, sì, come lo vogliamo chiamare. Quindi diciamo che allora Facebook sfrutta la popolarità e la diffusione di Android per andare nelle mani di un sacco di utenti. Allora, naturalmente stiamo parlando solo del mondo Android, quindi fuori per il momento, o forse è per sempre, non so, il mondo iOS e anche non, Windows Phone. Non credo che né Apple né Microsoft accetterà mai una cosa del, esatto, genere. E questo annuncio è possibile perché il sistema Android è aperto e bisogna vedere se quelli di Google lo manterranno aperto a questo punto. Esatto, perché a questo punto infatti alcuni dicono: ah, Google si arrabbierà tantissimo, probabilmente si sarà già arrabbiato, ma non pubblicamente. Perché? Perché potrebbe arrabbiarsi? Google si arrabbierà tantissimo perché ha lei un social network che si chiama Google Plus e che da questa partita potrebbe uscire fortemente ridimensionato. Diciamo già subito che Google Plus non va benissimo. Certo che se poi gli installano sopra anche Facebook, le chance di successo sono, sì, ben pochine. Cioè fondamentalmente loro dicono: ma come? Noi abbiamo messo a disposizione del mondo un sistema operativo aperto, tu Facebook lo sfrutti per farci concorrenza, perché non dimentichiamo, Facebook ha annunciato che ci sarà anche la pubblicità. Esatto, è come se tu dici: io lascio casa mia aperta, venite a fare quello che volete, poi entri dentro e vedi che questo ha aperto un negozio. Non è che ti arrabbi, però dici: attenzione, qualcosa non funziona. Infatti una delle ipotesi, però qui stiamo andando un po' oltre, diciamo, l'annuncio di questi giorni, potrebbe essere che Google blindi un po' di più Android. Sarebbe una notizia, però è questa la cosa che dobbiamo aspettarci. O chiudono qualche specifica, rendono più disagevole, come tra l'altro fa per certi versi Windows 8 con gli altri, per cui rende più complicato l'accesso a. Allora a questo punto resta formalmente aperto il sistema, però diventa difficile da usare l'applicazione Facebook Home, tra l'altro ce ne accorgeremo noi di questo, saranno gli utenti ad accorgersene, oppure accetteranno questo assalto alla diligenza, vediamo. Sì. Senti, ultima domanda, come è stata presa a livello internazionale questa notizia? I commenti sono più positivi, più negativi, cosa è successo? Allora, la stampa americana, in particolare Wired, ha attaccato Facebook, ma sotto il profilo della privacy, che nota bene Enrico, questa è una novità, perché solo dalla multa Google in poi c'è stata la stampa americana in qualche modo è attenta e sensibile a questi temi, e i titoli su questo Facebook Home erano appunto attenzione alla privacy, era questo un po' il senso generale. È troppo invasivo. Potrebbe essere troppo invasivo, vediamo, bisogna capire che questo è un altro capitolo che si aprirà in seguito. Sì. Bene, grazie a Luca Tremolada, domani sul Sole 24 Ore assieme a Nova, presto, ciao Luca. Grazie a tutti, ciao Enrico. Bene, Facebook Home, lo ricordiamo, sarà lanciato il 12 aprile, inizialmente sarà disponibile per i più importanti smartphone Android, quindi HTC One, il One X, il Galaxy S3 e l'S4 e anche il Note 2 di Samsung. Per l'occasione, poi arriverà anche naturalmente per altri telefoni Android, per questa occasione è stato lanciato prima negli Stati Uniti, poi vedremo cosa succederà nel resto del mondo, anche un nuovo telefono marchiato HTC in collaborazione con AT&T che si chiama First, ma appunto questo ci interessa poco. Comunque la cosa importante è capire, e lo capiremo nei prossimi mesi, direi forse settimane poco, nei prossimi mesi, quello che succederà con Google, perché come dicevamo questo annuncio creerà anche problemi di natura pubblicitaria, perché se la pubblicità viene veicolata tramite Facebook Home, la prima cosa che io vedo sullo smartphone è questa pubblicità e non le altre pubblicità che vengono erogate all'interno di Android attraverso i servizi di Google. E questo è molto importante anche perché poi una scelta del genere avrà ricadute anche in borsa. C'è stata una piccola risalita del titolo Facebook nella giornata di venerdì, ma vedremo i segnali nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo da un servizio in streaming, quello musicale, appena arrivato in Italia, Radio, è scritto RDO, da poco, dicevo, disponibile in Italia, ha lanciato anche Video, quindi dalla radio al video, è dedicato a film e telefilm. Per il momento il servizio è disponibile negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ed è possibile noleggiare o comprare film o telefilm. Dall'autunno questo servizio dovrebbe essere esteso anche ad altri paesi. Un'altra novità per chi ascolta la musica è il servizio Nokia Music, disponibile su tutti gli smartphone Lumia con Windows Phone, esiste ora anche per Windows 8 e Windows RT. Al momento la novità riguarda solo gli abbonati al servizio Nokia Music Plus in Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, dovrebbe arrivare anche in Italia in poche settimane. Uno potrebbe dire: perché date delle notizie che riguardano solo Stati Uniti e altri paesi? Beh, per farvi un po' capire qual è il trend, queste cose prima o poi arrivano anche in Italia. Allora, se alcuni servizi nascono, ce ne sono anche molti che muoiono, alcuni muoiono senza che vengano fatti grandi annunci. Invece BlackBerry ha annunciato la chiusura del servizio Music, la piattaforma resterà attiva fino al 2 giugno, non so in quanti dei nostri ascoltatori utilizzino BlackBerry Music, comunque se c'è qualche utente all'ascolto, BlackBerry consiglia di utilizzare il servizio Radio di cui abbiamo parlato poco fa. Però Disney ha deciso di chiudere la LucasArts, la software house della Lucasfilm, acquistata alla fine dello scorso anno per poco più di 4 miliardi di dollari. 4 miliardi di dollari, non scherziamo. Allora, la nuova strategia Disney prevede la gestione delle licenze a partire da quelle per i videogames di Star Wars, quindi di Guerre Stellari. Secondo la società, lo sviluppo dei videogiochi verrà affidato ad aziende esterne. C'era molto attesa, importante questa notizia, perché c'era molta attesa per Star Wars, il videogioco, nuovo episodio. Vedremo se questo videogame verrà sviluppato oppure no. Un'ultima notizia che per certi versi è preoccupante. Allora, la lotteria Gratta e Vinci, famosa in Italia, arriva anche su smartphone grazie ad un'applicazione sia per iOS, quindi Apple, e anche per Android. C'è anche una versione HTML che è compatibile con altri terminali. Si gratta col dito sul display dello smartphone e per comprare i tagliandi si utilizza il proprio conto gioco. Beh, dicevo preoccupante perché già abbiamo molti problemi legati all'abuso del gioco, beh, figuriamoci se poi se questi giochi finiscono anche sugli smartphone. Io sono del partito che vorrebbe, se non proprio vietare, limitare fortemente questi giochi, ma questo è tema di altre trasmissioni. Adesso ci fermiamo per circa un minuto, questa è 2024, vi ricordo che nella seconda parte, dopo GR24 delle 16, parleremo di scuola digitale, partendo da un'esperienza molto interessante che è già attiva da circa 3 anni e da alcune considerazioni che sono state fatte anche nella giornata di ieri a Bergamo, dove centinaia di studenti hanno partecipato ad un evento organizzato dal Centro Studi Impara Digitale. Ne parliamo tra poco. 2024. Potete comunicare con noi chiamando il nostro numero verde 800240024. Tra poco parleremo di come internet può favorire l'economia italiana, ma soprattutto le eccellenze italiane. Prima parliamo di satelliti, perché il governo giapponese ha approvato l'espansione del mini sistema satellitare di posizionamento chiamato Quasi Zenith Satellite System, che si basa su un satellite lanciato nel 2010. Altri 3 satelliti verranno lanciati entro il 2017, entreranno in funzione nel 2018. Allora, questi satelliti fondamentalmente migliorano il segnale del GPS americano, che soprattutto nelle città piene di grattacieli in Giappone non sempre è presente o preciso. Allora, il motivo per cui il Giappone, ma direi un po' tutto il mondo, investe milioni di euro nello sviluppo di questo sistema è legato al valore economico che hanno o avranno e avranno sempre di più i servizi che sfruttano la posizione. Anche l'India ha un progetto analogo per aumentare la precisione del GPS con una piccola flotta nazionale. Allora, va detto che il GPS americano diventerà molto più preciso nel corso dei prossimi anni, mano a mano che verranno lanciati nuovi satelliti per sostituire gli attuali. Il ritmo di sostituzione è piuttosto regolare. Il prossimo nuovo satellite GPS americano verrà lanciato il 15 maggio. Allora, che cosa succede invece in Europa? Allora, nel frattempo noi ci prepariamo a rendere operativo fra il 2014 e il 2015 Galileo. Lo dico visto che alcuni ascoltatori negli ultimi mesi ci hanno fatto delle domande, ogni tanto qualcuno dice: ma Galileo dove è finito? Allora, avrà una costellazione di 30 satelliti, per ora ce ne sono 4 operativi e proprio il 12 marzo, quindi quasi un mese fa, l'Agenzia Spaziale Europea ha ricevuto il primo segnale di posizione con un errore di circa 10 metri. E voi direte: mamma mia, no. Allora, come primo test, per avere solo i quattro satelliti in aria è un buon risultato. Allora, la precisione di Galileo per i servizi aperti e gratuiti, cioè quelli che utilizziamo noi con il navigatore, con lo smartphone, eccetera, eccetera, sarà, quando sarà tutto operativo, inferiore al metro, fino a pochi centimetri per servizi commerciali o per alcuni settori pubblici d'emergenza, per i militari, eccetera, eccetera. Allora, i prossimi 2 satelliti per il sistema Galileo verranno lanciati in ottobre. La prossima settimana a Milano aprirà il Salone del Mobile. E che cosa c'entra Internet 2024 con i mobili? Allora, è uno degli appuntamenti nazionali più importanti. Devo dire che la città si trasforma letteralmente, forse è l'unico appuntamento a Milano che trasforma la città. Ci sono centinaia di iniziative e è un segnale, perché l'Italia si conferma come uno dei poli internazionali del design, che va oramai oltre il mobile e oltre all'arredamento. Allora, la prossima settimana molte aziende anche di tecnologia organizzano eventi o mostre. Allora, se l'Italia è forte in questo settore, che cosa può fare Internet per l'Italia? Partiamo da alcuni dati che possono essere raccolti osservando le ricerche di Google e capirete che da qui si possono anche creare delle strategie aziendali. Carlo Dasaro Biondo è responsabile di Google per l'Europa del Sud, l'Europa sud-orientale, il Medio Oriente e l'Africa. Noi disponiamo dell'insieme delle ricerche fatte dal 2004 ad oggi, quindi guardando chi ha cercato che cosa dove, possiamo trarre delle analisi e delle informazioni. Quindi potremmo dire che se io dal Giappone cerco Ferrari, automobili, Ferrari, magari scrivo anche Made in Italy, voi lo sapete, in quel modo correlate il Made in Italy con un tema magari. Se lei cerca Ferrari, esattamente. lei di solito cercherà Ferrari, poi cercherà la parola Italia, eccetera. Quindi dalla successione delle ricerche, dal come le persone cercano, possiamo trarre delle informazioni che tra l'altro sono pubbliche, è un software che si chiama Tendenze di Ricerca, su cui chiunque può entrare per fare le sue proprie analisi. Sono dati pubblici che diamo a tutti, perché sono di tutti, dato che sono, partono da informazioni pubbliche, non nominative. Io non so se l'ha cercato lei o mio fratello, so che qualcuno l'ha cercato. Sì, che qualche milione di consumatori non è andata su Google e fa. Esatto. Non c'è problema di privacy, sono dati poi pubblici che ti forniamo a tutti. Questo, tra l'altro, lo dico agli ascoltatori, visto che ogni tanto parliamo di open data ed è un tema di cui si sta parlando molto anche in Italia. Questo è un esempio di dati che vengono messi pubblicamente disponibili ai consumatori. Dunque, quali sono i risultati che voi avete messo insieme con questa ricerca? Noi abbiamo constatato che la globalizzazione che avviene oggi ha vari centri, cioè 100 anni fa gli Stati Uniti dominavano il mondo, l'Inghilterra, oggi alcuni paesi hanno sviluppato un vantaggio competitivo perché hanno il petrolio, perché hanno un costo del lavoro di un certo tipo, perché hanno certe tecnologie. Ci siamo detti, ma ci sono in Italia delle aree di eccellenza dove essere italiano, appartenere al paese Italia, comporta un vantaggio competitivo? E se così è, che cosa possiamo fare per loro? Quindi, guardando le ricerche nel mondo dal 2004 ad oggi, abbiamo analizzato che l'Italia è legata a certi settori, o piuttosto che le persone si aspettano di trovare certe cose: il turismo, la moda, l'alimentazione, il mobile e la macchina utensile. Se lei cerca queste parole qua, questi termini o termini legati a, queste, a questi settori, si accorgerà che l'italianità è un fattore di vantaggio. Le faccio una domanda sul perché voi avete fatto questa analisi che va oltre quello che già lei mi ha spiegato, cioè perché Google è interessata a questo tema? Perché noi siamo un modo di sostenere le esportazioni, noi siamo presenti in tutto il mondo e permettiamo attraverso le nostre parole chiave di vendere servizi nel mondo intero. Quindi se troviamo settori italiani interessati all'export, sono per noi i clienti migliori che possiamo servire in modo più efficace, perché possiamo aiutarli a vendere in Asia, in Francia, in America, in Russia, possiamo proporgli il mondo a costo variabile. Noi siamo una forza vendita, vendiamo per conto di queste aziende e quindi per noi identificarli, saperli chi sono, poterli supportare, aiutare è il modo di meritarci di che vivere. Mi fa un esempio di come, guardando a uno dei risultati della ricerca, è possibile poi trasferire questo nel mercato italiano e poi a magari dei clienti. Prendiamo un esempio e scopriamo che c'è un interesse molto forte da parte della Russia per la città di Roma, è un dato vero, e la città di Venezia. A quel punto, se io sono Google, vado a trovare gli albergatori di Venezia e di Roma, vi dico: guardate che se vi presentate ai russi, proponete il vostro sito in russo o acquistate parole chiave russe, i russi che si interessano all'Italia vi troveranno e verranno da voi. Senta, le faccio una domanda che parte anche dall'area che lei copre come responsabilità, visto che ci sono molti paesi e poi soprattutto poi lei ha occasione di parlare anche con i suoi colleghi di Google che coprono le altre aree. Cosa sta succedendo, al di là delle cose che ci diciamo sempre sulla crescita della banda larga, dell'utilizzo di internet, che è molto lenta, siamo in posizioni non top nel mondo, dal vostro punto di vista cosa sta succedendo all'economia digitale italiana? Come cresce, quanto cresce e se esistono anche dei motivi di speranza, insomma di ottimismo? Ma io quest'anno sarei molto più ottimista dell'anno scorso. Abbiamo notato quest'anno un'accelerazione dell'e-commerce in Italia. Non dico che è ancora un recupero, ma è un'accelerazione. Ed è la prima volta. La voglia di alcuni distributori del mondo fisico di presentarsi su internet per proporre tecnologia, proporre libri, dischi, vestiti, diventa sempre più rilevante. Oggi il nord Italia, che era 2-3 anni fa 2-3 volte sotto la Francia o la Germania in termini di utilizzo pro capite, è arrivato a -2, -1.5, quindi c'è un miglioramento da questo punto di vista, che per noi è una grande notizia, anche molto confortante, quindi non sarei pessimista. Secondo, vediamo che gli export, la ricerca di temi legati al Made in Italy cresce, è cresciuta del 13% rispetto all'anno scorso, con un aumento delle esportazioni solo del 4%, quindi cresce 3 volte di più. Terzo, vediamo che le aziende che decidono di esportare crescono in fatturato due volte di più di quelle che non lo fanno. Quindi che gli strumenti funzionano ne abbiamo la prova. Che ci sia un interesse a livello globale per l'Italia, abbiamo identificato i temi e ci sono. Che in Italia si cominci a capire il valore di internet, lo dimostra l'accelerazione dell'e-commerce. Francamente io trovo il pessimismo sulla situazione comprensibile, per carità, perché molti nel nostro paese stanno soffrendo, però questa è una leva che funziona e può essere utilizzata e che sta dando risultati. E questa era la voce di Carlo Dasaro Biondo, che è responsabile di Google per l'Europa sud-orientale, il Medio Oriente e l'Africa. Naturalmente Carlo Dasaro Biondo parla vedendo il mondo con la prospettiva di Google, ma quello che ha detto è condivisibile e io lo condivido. Molte aziende avrebbero l'opportunità di far conoscere in primis, ma anche poi vendere prodotti all'estero, e internet è sicuramente una buona leva. Internet, attenzione, non è una cosa facile e semplice. Costruire una strategia digitale è tutt'altro che facile e semplice, ma importante è iniziare e cominciare a capire che cosa può fare internet per l'Italia. Saluto Dianora Bardi, la professoressa Dianora Bardi, ma di solito 2024 non metto titoli in testa. Benvenuta a 2024. Grazie. La professoressa Bardi insegna al Liceo Scientifico Lussana di Bergamo ed è uno dei fondatori del Centro Studi Impara Digitale, ma soprattutto di un metodo per insegnare ai giovani di oggi che sta dietro appunto ad Impara Digitale. Detto in estrema sintesi, ed è il tema della puntata della seconda parte di 2024 di oggi, in che cosa consiste questo metodo che utilizza le tecnologie in modo molto forte? È un metodo didattico che si basa sulle competenze chiave europee e che vede nelle tecnologie semplicemente uno strumento per migliorare la didattica con i ragazzi, che è una didattica molto personalizzata sullo studente, sulla laboratorietà, sulla condivisione e la collaborazione nel cloud learning. Lei ha detto già una cosa che potrebbe spaventare di più, il cloud learning, quindi stiamo parlando di cloud computer. Voi lavorate con i tablet? Sì, noi lavoriamo con i tablet, però facciamo formazione con qualsiasi tipo di tecnologia, può essere anche un netbook, un notebook, non è quello l'importante, non è la tecnologia l'importante, basta che sia una tecnologia mobile. Sì, parleremo di questo nella seconda parte di 2024, tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Io sono Enrico Pagliarini, oggi c'è Fabio Cantadori che si occupa della parte tecnica. Potete comunicare con noi anche tramite Twitter o Facebook o anche gli SMS 349 238 6666. Il sottotitolo di 2024, che è la trasmissione di tecnologia di Radio 24, è Come la tecnologia ci cambia la vita. E in questa seconda parte cercheremo di capire come invece la tecnologia cambia la scuola o può cambiare la scuola. Uno dei temi molto caldi in questi mesi, ma lo sarà per i prossimi anni direi, è come la tecnologia può entrare nella scuola o come la scuola si deve trasformare in un mondo che oramai è cambiato drasticamente. Sono cambiate molte aziende, non tutte purtroppo, e stanno sfruttando la tecnologia. Anche la scuola lo deve fare. Allora, l'abbiamo incontrata poco fa, ma la presento nuovamente. Dianora Bardi insegna al Liceo Scientifico Lussana di Bergamo ed è vicepresidente del Centro Studi Impara Digitale, nonché uno dei fondatori di questo centro studi, che è di fatto un'associazione che è nata per creare un modello per sfruttare le tecnologie per cambiare la scuola. Allora, l'associazione è nata un anno fa, giusto? 20 marzo 2012. Però lei insegna con questo nuovo metodo già da 2 o 3 anni, anni. No, dunque io sono, a parte usare le tecnologie a scuola dal 97-98, però nel 2010 io sono stata la prima in Italia a mettere l'iPad nella scuola, ancora prima che arrivasse in Italia ho fatto il progetto. Cioè io ho fatto il progetto a maggio-giugno, ma l'iPad era in America e noi in Italia è arrivato, io l'ho avuto a luglio e i miei colleghi a settembre, quindi sì. Allora, partiamo proprio da quello che lei fa a scuola. Lei, allora, innanzitutto diciamo che lei insegna latino e italiano, italiano, sì. Italiano e latino. insegna anche da parecchio tempo. Eh beh sì, sono... perché uno potrebbe pensare una persona che introduce un tablet, perché di fatto lei è partita dall'iPad ma oggi poi sì. utilizza qualsiasi altra sì. tecnologia, uno potrebbe pensare lo fa un insegnante giovane, non è un problema di età, è un problema anche di esperienza. Questo è importante, vorrei che lei lo dicesse. Lei insegna da quanti anni? Io ho 59 anni, quindi insegno da parecchi anni, praticamente 38 anni. Seguo. Quindi sa di che cosa stiamo parlando. Esatto, sì, sì, certo. Importante. Ecco, sì. Però non credo che proprio c'entri niente l'età, talvolta i docenti giovani sono anche abbastanza spaventati, no? Perché vede, se usare le tecnologie a scuola vuol dire avere molto ben chiaro che cosa bisogna fare a livello didattico prima che usare la tecnologia, quindi non bisogna saper solo usare bene la tecnologia, cosa che io non so neanche se so usare molto bene, però ho l'esperienza di come si può modificare la didattica utilizzando le tecnologie. Sì. Ecco. Io ho assistito ad una sua presentazione che mi ha particolarmente colpito positivamente, e una cosa che lei ha detto che mi ha colpito e dalla quale vorrei partire è: se noi non utilizziamo la tecnologia, ma soprattutto gli strumenti che i ragazzi utilizzano tutti i giorni nella loro vita, li perdiamo. Sì. Che cosa fa lei a scuola? Ma allora, prima di tutto, noi a scuola, tutti i docenti della mia scuola, della mia classe, noi abbiamo 9 classi che attualmente utilizzano tecnologie tablet nella didattica giornaliera, ma in maniera assolutamente immersiva, come uno strumento di lavoro normale. Ormai abbiamo perso l'attenzione alla tecnologia. Noi ci basiamo molto sulla laboratorietà, sulla condivisione, la collaborazione e la co-creazione fatta nella rete da parte dei ragazzi con i docenti. Quindi il nostro scopo è quello di rendere protagonista il ragazzo, perché la tecnologia è uno strumento che può dare al ragazzo la sensazione, tutti gli strumenti necessari per poter creare un proprio processo di apprendimento. Per cui loro lavorano moltissimo in gruppo, quindi molta laboratorietà in classe, scompare il banco tradizionale di fatto, ma lavorano nei gruppi e collaborano insieme su tematiche trasversali tra le varie materie, utilizzano le risorse digitali, perché avere il tablet vuol dire essere in rete continuamente. Quindi noi dobbiamo insegnare ai ragazzi come prendere i metodi per selezionare meglio di tutti i siti più importanti nella rete, perché quello che è gravemente molto pericoloso è il fatto che i ragazzi accedono alla rete senza sapere minimalmente sì. quali sono le informazioni scientificamente valide o non valide. Infatti di questo parleremo, perché è un aspetto molto importante. Sì. Ma i ragazzi arrivano a scuola quindi con un tablet e basta? No, loro arrivano con il tablet, se hanno voglia prendono appunti con la carta e la penna, se hanno, cioè i libri sono digitali ormai. Quindi non hanno libri i vostri studenti? I miei proprio non ce l'hanno proprio, ecco, ma nel senso che io per 2 anni non li ho adottati. Sì. Non li ho adottati fin tanto quando il libro era semplicemente, cioè a parte il libro cartaceo, ma anche il libro digitale per adesso è soltanto un PDF, no? Una trasformazione del libro digitale. Non sono ambienti interattivi, ma soprattutto non mi danno la possibilità di estrapolare i contenuti. Siccome noi facciamo una didattica che si basa su percorsi e progetti trasversali sulle varie discipline, avere un libro di testo è molto limitante. Cioè il libro è digitale e da lì prendono delle informazioni, se necessario, prendono i contenuti, ma nella mia classe ci sono anche tanti libri cartacei posti in una biblioteca all'interno della classe stessa, perché non bisogna mica dimenticare il sapore della carta. Cioè il digitale non deve sostituire il tradizionale, se lo deve integrare, perché dà moltissime altre fonti. Però lo studente deve lavorare su molte fonti diverse che da internet danno i libri di testo e dall'elaborazione che loro fanno poi di tutti questi documenti che cercano nella rete o che cercano o video o immagini o film, e poi dalla lettura critica delle fonti che loro prendono anche da molti libri di testo diversificati. Sì. Quindi non un solo fonte, sì, ecco, questo sì. È fondamentale. Oh, dico subito, per tranquillizzare alcuni ascoltatori, che poi il risultato finale, che è molto importante, è, non so se dire simile o migliore rispetto alla scuola tradizionale. Io ho fatto una domanda durante questa presentazione, perché visto che il latino l'ho studiato anch'io e capisco che può essere complicato, cioè alla fine i ragazzi la versione di il latino la sanno tradurre come gli altri che studiano sulla carta. Assolutamente sì. Noi è molto importante che i contenuti, le conoscenze sono assolutamente tradizionali, ma la modalità con cui si acquisiscono queste conoscenze sono assolutamente diverse, perché si basano essenzialmente su un lavoro fatto sui ragazzi, dove si devono sviluppare le abilità del ragazzo e vedere come il ragazzo riesce ad acquistare delle competenze che potranno poi aiutarlo moltissimo nel mondo del lavoro. Ma le conoscenze sono assolutamente quelle sono tradizionali. Le stesse, sì. Allora, stiamo parlando non di una classe, non di sole 9 classi che avete voi a Bergamo, ma di un metodo che è stato adottato molto più in là. Cioè oramai è una, come dire, un'esperienza che viene utilizzata in altre scuole. Allora, attualmente noi nella nostra rete come Impara Digitale abbiamo 25 scuole, però dopo Generazione Web, che è stato un bando che ha dato 12 milioni e mezzo di euro alle scuole della Lombardia per fornire le classi prime e terze delle scuole superiori di tablet o di tecnologie, noi siamo stati scelti dall'ufficio scolastico regionale per fare formazione con il nostro metodo alle 350 scuole della Lombardia, proprio per dare un supporto ai docenti per entrare nella classe e trovarsi con i ragazzi e colloquiare soprattutto con loro in modo tale che i ragazzi capiscano e noi capiamo quello che stanno facendo i ragazzi, perché altrimenti veramente, come dicevo prima, noi perdiamo i nostri ragazzi. Il gap generazionale diventa enorme se noi continuiamo a fare una didattica tradizionale con davanti 30 ragazzi con il tablet che sicuramente stanno facendo altro mentre noi stiamo dietro la cattedra a spiegare. Sì, perché da voi non c'è, magari c'è la cattedra, però diciamo l'aula non è un'aula tradizionale. Cioè ma ci sono i banchi, però i ragazzi durante le mie lezioni si possono alzare, vanno in gruppi, si mettono come meglio desiderano, cioè lavorano come se fosse una bottega medievale, ecco, proprio hanno dei computer a disposizione, hanno tutti gli strumenti di lavoro come se facessero delle ricerche dei campus universitari. E adesso questo metodo poi noi lo stiamo portando in tutta Italia. Io appunto dicevo che in questo periodo ho 19 convegni in tutta Italia, proprio mi hanno richiesto, perché le tecnologie stanno diventando pervasive in tutta Italia e gli insegnanti hanno una necessità folle di capire come poter andare in classe e cosa devono fare quando entrano in classe. Bene, ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di scuola digitale e stiamo parlando di un metodo, di una idea, di un'esperienza che è nata al liceo scientifico Lussana di Bergamo e anche grazie alla, soprattutto grazie alla professoressa Bardi, che è stata tra i fondatori del centro studi Impara Digitale. Trovate molte informazioni su www.imparadigitale.it, giusto? Sì. Voi ieri, tra l'altro, noi abbiamo approfittato di questo weekend che per lei è stato molto impegnativo, che è iniziato, non è iniziato proprio ieri, diciamo che ieri c'è stata la giornata più importante, perché voi avete riunito 600 studenti per far cosa in questa giornata importante? Abbiamo messo gli studenti sul palco come protagonisti e gli esperti, gli adulti in platea a rispondere alle domande dei ragazzi. Cioè, mi spiego, è stato il primo meeting nazionale degli studenti sulla scuola digitale del futuro, però è partito a gennaio, poi di fatto l'idea l'abbiamo avuta a dicembre, a gennaio è partito, abbiamo costruito un sito, questo è partito da un'idea mia in accordo con i miei ragazzi di 14 anni, 20 ragazzi di 14 anni, e abbiamo deciso di dare ai ragazzi voce, perché se noi adulti non ascoltiamo i ragazzi non possiamo fare una vera scuola digitale, perché il linguaggio è loro e non è il nostro pensiero, quindi noi dobbiamo ascoltare i ragazzi. Quindi abbiamo fatto un sito web, abbiamo lanciato prima un concorso sul titolo migliore e logo migliore, ci hanno inviato vari titoli, 52 titoli e 24 loghi, li hanno votati in Facebook e poi ci sono stati i vincitori. Ma soprattutto abbiamo messo un database dove i ragazzi ci ponevano le domande che loro avrebbero voluto fare agli adulti, agli esperti. Sono arrivate 130 domande su tutto un panorama a 360 gradi, dal cyberbullismo, problemi dei libri, alla sicurezza, al mal di testa che può arrivare avendo il stando troppo sul tablet, alla necessità di avere una didattica diversa. Quindi loro ci hanno posto 130 domande, noi abbiamo cercato gli esperti per ogni singolo argomento, abbiamo chiesto se erano disponibili a mettersi in platea a rispondere ai ragazzi, e sono intervenuti gli editori, sono venuti tutti gli editori, sono venuti i produttori di hardware e dalla polizia stradale, la polizia della sicurezza informatica, a tutti i vari esperti della rete. E devo dire che è stata un'esperienza eccezionalmente bella, perché sono arrivati questi 600 ragazzi che si sono messi a gruppi sul palco e hanno incominciato fisicamente a porre domande, e devo dire che gli esperti... E buona parte di questo evento è disponibile su imparadigitale.it. Sì. E la mattina è stata così, insomma, questo, sono andati in cattedra i ragazzi. Sì. Tornando alla tecnologia, vi sarete sicuramente posti il problema della neutralità tecnologica, cioè perché se io sono obbligato a comprare l'iPad che è dell'Apple, oppure un particolare Android, oppure un tablet Windows che comunque è di un produttore, questo può creare un problema. Come l'avete risolto? Ma dunque, noi siamo partiti onestamente all'inizio, perché di tablet che a disposizione naturalmente era l'iPad, insomma, quindi siamo partiti con quello, abbiamo fatto tutta un'analisi giorno per giorno, abbiamo fatto una storyboard giornaliera, in tutte le ore noi scrivevamo che cosa facevamo e che cosa non facevamo, quali erano le app che utilizzavamo e che utilizzo quest'app poteva avere nella didattica delle singole materie. Questo per tutto l'anno scolastico l'abbiamo fatto, e alla fine abbiamo estrapolato tutte le app che ci servivano di più. Dopodiché però ci siamo resi conto che non volevamo, no, avere soltanto un tipo di tecnologia, anche perché è costosa e noi dobbiamo tener conto, insomma, anche del costo di queste tecnologie per la famiglia, perché noi abbiamo deciso che parte dei libri di testo non venivano comprati e in 2-3 anni avrebbero ammortizzato la spesa della tecnologia, però onestamente col proseguo questo non sempre può essere, no, con le crisi economiche, quindi, e poi anche per un problema di, se andiamo in rete, la necessità di essere il più aperti possibili. Quindi abbiamo aperto ad Android, e in quel caso abbiamo comprato Samsung, in quel caso il Galaxy di Samsung, però adesso io lascerò libero l'anno prossimo alle famiglie che magari hanno già a casa un proprio tablet, perché vede, non è importante avere quel tablet piuttosto che un altro, è importante avere una tecnologia che permetta ai ragazzi di lavorare e condividere in rete con grandissima facilità e andare in rete immediatamente. Sì, sì. I genitori, innanzitutto questi tablet li paga la famiglia? Sì, da noi sì, nel senso che noi all'Open Day abbiamo messo come volontaria l'adesione a questo tipo di didattica, perché in effetti chi entra non è proprio normalissimo, vedere, cioè se uno entra in classe mia non è che sia normalissimo, non è che vede le cose molto tranquille, non è che noi facciamo le lezioni in maniera tradizionale, ovviamente, quindi essendo una metodologia diversa è anche a casa, loro a scuola lavorano in gruppo e condividono tutto nella rete, ma lei si immagini che a casa loro riproducono i gruppi di lavoro che fanno a scuola. E quindi si incontrano a casa? Virtualmente, virtualmente loro si incontrano, certo. In più lei calcoli che le nove nostre classi, noi siamo un po' avanzati rispetto ad altre scuole, ma le nostre nove classi lavorano come un consiglio di classe unico, quindi facilissimamente gli stessi lavori che io faccio nella mia classe, altri ragazzi lo fanno nella loro. Allora, durante le lezioni della mattina si mischiano tra di loro fisicamente, cioè le vede uscire con le sedie, no? Da una classe all'altra, per mischiarsi i ragazzi in gruppi misti, sì. E condividono tutto in Wikia, che è una modalità di scrittura, ma a casa riproducono questi gruppi lavorando tutto nella rete. Sì. E quindi per le famiglie. Ecco, ma le famiglie come hanno preso questa cosa? Perché, Allora, per noi le famiglie hanno aderito volontariamente, quindi però, perché diciamo, il costo su 100 genitori la percentuale di adesione, magari anche entusiasta, qual è stata? Ribadisco, se lei lo fa a livello volontario, è chiaro che le famiglie, se mettono la crocetta nel momento in cui scrivono i loro figli perché li vogliono fare entrare in quelle classi, poi vedranno, insomma, l'hanno accettato, ci avranno discusso, l'hanno discusso prima. Certo, ci sono dei genitori che mi dicono: caspiterina, prima dicevo a mio figlio chiudi quel computer e vai a studiare, adesso non ci riesco più, perché certo. Gli risponde: ma io sto studiando. Il preside, e tutte, adesso io non sono esperto di scuola, quindi non so qual è la gerarchia e la struttura, sì. Che però dico, oltre al preside ci sarà qualcuno che a livello provinciale, regionale dovrà decidere, ecco, come hanno preso questa Beh, cosa? Noi quando abbiamo iniziato siamo stati proprio analizzati, studiati, monitorati, valutati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che ci ha proprio ha seguito passo passo tutta la nostra sperimentazione, l'ha validata, tanto che abbiamo scritto anche un libro, perché l'importante è fare sempre tutto il paragone, come lo dicevo, con le classi a insegnamento tradizionale. Noi facciamo tutte le prove parallele, in modo che i nostri ragazzi siano assolutamente tranquilli di avere le conoscenze, come lei diceva prima, alla fine sanno leggere o sanno tradurre il testo, assolutamente sì. Ma poi io ho portato una classe alla maturità l'anno scorso, la prima classe digitale alla maturità, cioè, che ha fatto con questo metodo. Che non ha fatto tutti i 5 anni però. Ne ha fatti 2, però quei 2 sono stati certo. Abbastanza forti. Perché... E alla maturità? Alla maturità hanno trovato una commissione che gli ha detto: bellissimo tutto, meraviglioso, perché non avevamo i programmi tradizionali ovviamente, ma avevamo 5 percorsi trasversali dove affluivano tutte le discipline, sì. E tutto attraverso, senza i libri di testo, perché poi i ragazzi si costruiscono i loro ebook multimediali, e con tutta una programmazione particolarissima, che è la programmazione per competenze. La commissione ha detto: molto bello tutto questo, non ci abbiamo capito molto, noi interroghiamo tradizionalmente. E i ragazzi sono stati bravissimi, perché hanno destrutturato tutto il loro sapere e l'hanno potuto ricostruire rispondendo molto adeguatamente. E le dirò di più, che la cosa più bella è che sono usciti con un punteggio assolutamente superiore alle nostre aspettative, ma la commissione ha scritto un giudizio che a mio avviso è quello che a noi interessava di più, che i ragazzi erano molto più originali, molto più profondi e con grandi capacità di interrelazionare tra di loro gli argomenti. Senta, tornando alla tecnologia, visto che questa comunque è una trasmissione di tecnologia, abbiamo parlato dei tablet, magari torneremo sui tablet, anche magari riprendendo qualche domanda dai nostri ascoltatori. Parliamo di internet, sì. Come lo utilizzate, soprattutto che rete c'è? Internet immagino che ci sia, però visto che non è una cosa comune in tutte le scuole. No, allora la nostra è una scuola che ormai è cablata da moltissimi anni, abbiamo il registro elettronico da 6 anni in tutte le classi, no? Ecco, in 65 classi, 64 classi abbiamo già il registro elettronico da moltissimi anni, quindi internet da noi è usata, però prima non era usata dai ragazzi ovviamente, perché era bloccata dai ragazzi. Adesso le classi che hanno i tablet hanno il wifi proprio mirato alla loro classe. Certo è che 9 classi che accedono in contemporanea più tutte le altre classi che accedono comunque alla rete e crea dei grossissimi problemi a livello infrastrutturale. Infatti accedere alla rete diventa talvolta cade, lenta, ma è inevitabile. E questo è il grossissimo problema delle scuole, che si stanno inondando di tecnologie ma non hanno le infrastrutture corrette per poi reggere queste, soprattutto i collegamenti in internet. Noi all'inizio avevamo delle password a ogni tablet, poi abbiamo provato a lasciare le password libere. Perché c'hanno anche i cellulari, voglio dire. Un macello. Sì. Dopodiché siamo tornati alle password. Ma senta, un suo studente fa un po' quello che gli pare su internet? Perché se uno, come dire, potrebbe passare l'ora di lezione guardandosi siti di diverti, giocando, facendo altre cose. Beh, si scarica anche un'applicazione e gioca con l'applicazione, sai, solo per questo. Sicuramente, vede, se io fossi dietro la cattedra a fare la lezione tradizionale, a spiegare Leopardi per 2 ore di seguito, alla fine vedo 26 ragazzi davanti con il tablet che rigorosamente alzato, no? Perché così scrivono meglio, ovviamente, certo. E loro stanno scrivendo, io sono convintissima, loro stanno prendendo appunti, è chiaro che se ho questa velleità e credo che, e poi alla fine della lezione penso di aver fatto una lezione meravigliosa perché ho ho parlato tanto bene di Leopardi, sia tranquillo che loro, uno ha registrato, uno ha preso gli appunti e tutti gli altri sono in Facebook a chattare tra di loro, su questo non ci piove. Se li fa lavorare invece in gruppi e lei scende dalla cattedra e si mette con i ragazzi in mezzo a loro a lavorare con loro con dei compiti precisissimi, in tempistiche precisissime, le assicuro che il tempo della distrazione ci può essere, ma è molto ma molto limitato. Li deve far lavorare. Sì. Continueremo tra poco. A me piace moltissimo questo che è un progetto, un'esperienza. Poi immagino che in Italia ci siano altre esperienze e altre strade che si stanno prendendo. Il Ministero cosa sta facendo? Perché uno può pensare, ma voi vi state sostituendo al Ministero. Ma io ho incontrato il Ministro Profumo ad ottobre, abbiamo avuto un bel dialogo, un dibattito aperto io e il Ministro, il quale parlava di questi nuovi tipi di libri, di ebook, eccetera, insomma della nuova scuola digitale e di questa pervasività, del fatto che loro daranno tante tecnologie. E io ho posto loro la domanda dicendo, ma scusi, la formazione docenti dov'è? Perché senza la formazione docenti non si va da nessuna parte, le assicuro. Corretto. Non si va da nessuna parte. Sì. Il ministro mi ha detto che ci sta pensando. Bene, però fra poco, ma a parte che non si sa fra poco, fra molto, se ci sarà un nuovo governo, sì, un nuovo ministro. No, il problema è che le tecnologie ci sono già. Sì, sì, sì. E corrono veloci. Sono le 16:29 minuti, adesso ci fermiamo. Tra poco sentiremo anche alcuni nostri ascoltatori. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. 2024 riprende questa puntata di 2024 dedicata in questa seconda parte alla scuola digitale, come la tecnologia può cambiare la scuola e come la scuola deve cambiare, visto che oramai i ragazzi usano tutti i giorni la tecnologia. Ne stiamo parlando con la professoressa Dianora Bardi, che insegna latino e italiano al liceo scientifico Lussana di Bergamo e ha ideato questo metodo. Quante persone fanno parte di Impara Digitale? Quanti siete? Il gruppo, diciamo, il gruppo direttivo? Il direttivo siamo in 14-15. Che allora, è un'associazione, ma voi vi definite centro studi? Sì, perché, sì, certo. Perché in realtà lo scopo è quello di codificare un metodo, giusto? Non solo di codificare un metodo, ma proprio di essere un centro di ricerca. Infatti stanno facendo convenzioni con noi gli editori, le aziende, i centri di formazione, proprio perché le nostre scuole, oltre che noi, proviamo, sperimentiamo tutte le innovazioni che queste aziende ci danno, anche gli editori stessi, e poi facciamo report, diciamo, quello che va bene, che va male, finire, cioè guardiamo il futuro. Sì, sì. Ecco. Dunque, allora, sentiamo Davide da Genova. Volevo partire da un altro ascoltatore che però non troviamo, non c'è già? Allora sentiamo Michele, Luigi, Paolo, Marisa, Marisa da Ascoli, buongiorno. Ah, benvenuto. Io sono di Ascoli. Ah, di Ascoli anche lei. Sì, sono di Ascoli anche io. Perfetto. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Prego. No, volevo dire che stavo seguendo la vostra trasmissione. Sono d'accordo su quello che dite, perché il futuro è importante entrare in questo sistema. Solo che ancora una volta, secondo me, ci sarà una discriminazione su questa cosa, in quanto coloro che non possono entrare in queste classi perché non, con la crisi che c'è in questo momento, non possono acquistare questi tablet, rimarranno ovviamente al di fuori di questo, di questa cosa futuristica. Sì. E quindi ancora una volta andranno avanti i bocconiani, nel senso che chi può economicamente e può entrare alla Bocconi riesce poi ad avere un futuro, perché è la Bocconi quello che ti dà, ti apre la strada. Sì. La stessa cosa secondo me in questo caso, perché nella scuola si sta solo tagliando, si taglia, quindi non c'è la preparazione, non ci sono insegnanti. Sì, sì, sì, Marisa, c'è... chiarissimo. Che, ecco, cioè il concetto che è chiarissimo, e anzi ha fatto bene a dirlo, e noi infatti l'abbiamo ascoltata per prima, perché mi sembra un punto molto importante. Va anche detto che ogni epoca ha le proprie trasformazioni tecnologiche. Quando ero piccolino io, se non avevi il motorino eri un po', dovrei dire una parolaccia, ma insomma po' sfigato. Dato, io non ce l'ho mai avuto effettivamente, però. Ecco, che cosa no, si allora, può per quanto, rispondere? Allora, io so che come c'è stata Generazione Web, che è stato questo bando che è uscito in Lombardia l'anno scorso, noi siamo stati, la Lombardia è stata la prima regione che ha ricevuto questi fondi, essenzialmente dalla regione e dal MIUR proprio, la stessa cosa sta avvenendo su 14 regioni italiane, quindi le scuole potranno ricevere a secondo di quanto hanno a disposizione le singole regioni, però le scuole potranno accedere a questi bandi per avere delle tecnologie all'interno delle proprie aule. Poi è chiaro, è vero, questo è verissimo, cioè il fatto, i ragazzi, se la famiglia ha problemi ad avere, perché non è soltanto la tecnologia, in questo dobbiamo essere estremamente chiari, la tecnologia non è soltanto il tablet, è il costo delle app, è il costo della connessione ad internet, sì, avere il wifi a casa, comprarsi tutti gli accessori che servono per lavorare sul tablet, quindi non inganniamoci, è chiaro che questo è vero, come il fatto che i professori, la formazione se la facciamo i missionari, nel senso che noi non la formazione e fare formazione e aggiornarsi, dato che non ci viene dal ministero, perché a me non risulta che il ministero ultimamente negli ultimi anni abbia fatto nulla, dobbiamo aggiornarci perdendo il nostro tempo, riunendoci senza che la scuola ci possa dare un minimo di finanziamento. Poi lei mi ha detto, questo mi piace sottolinearlo, prima di andare in onda lei mi diceva che sono venuti a questo convegno insegnanti da tutta Italia. Sì, sì. E se uno non arriva dalla Lombardia o dalle regioni limitrofe, no, se lo paga, se lo paga. Io stamattina ho fatto un corso di formazione ai docenti, avevo lì 100 docenti, li ho fatti presentare uno a uno, sono venuti dalla Sardegna, ma hanno pagato loro. Sì. Purtroppo questa è una verità. Non sentiamo Alain che ci chiama dalla provincia di Pordenone, bentornato Alain, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Sento un fastidioso ritorno. Sì, Alain, allora proviamo a richiamarti. Devo dire che Alain, che è il nostro ascoltatore, che ha già chiamato in altre occasioni, non ha un ottimo telefono, perché io ricordo che abbiamo avuto problemi anche qualche mese fa quando l'abbiamo sentito. Davide da Genova, buongiorno Davide. Sì, buongiorno, buongiorno. Prego. Guardi, io volevo portare un l'esempio di un cliente che ho visto ultimamente, che è un collegio storico di Milano. Io faccio consulente informatico, sono andato da questo collegio e mi ha stupito perché il responsabile IT ha raccontato che tutte le loro aule hanno una lavagna digitale interattiva e ogni lezione è registrata, ma soprattutto se gli studenti sono malati o sono impossibilitati ad andare a scuola per qualche giorno, possono seguire tutte le lezioni, interagire, essere interrogati anche da casa con il computer. Secondo me questo non è in sincronia con quello che poi vedo e mi racconta mia sorella, che invece lavora in una scuola. Che scuola è quella che ha citato? È il Collegio San Carlo di Milano. Sì. È privato? Sì, è un collegio storico di Milano. Mia sorella è una insegna in una scuola elementare e invece è un po' diversa la situazione. Non è assolutamente a questo livello. Davide, grazie Davide della testimonianza. Allora, prego. Ci sono il fatto di avere le LIM nelle classi, sì, molte scuole ce l'hanno, e poi c'è sempre una differenza abbastanza sostanziale tra le scuole primarie e le scuole secondarie di secondo grado. In effetti le scuole secondarie di secondo grado, proprio un po' per le iscrizioni dei ragazzi, anche le pubbliche, eccetera, hanno più possibilità di dotarsi di tecnologie. Il fatto che i ragazzi seguano da casa e le lezioni se sono assenti, questo non lo facciamo costantemente. Cioè il fatto di avere dei tablet, basta schiacciare FaceTime o Skype, i ragazzi si collegano continuamente e seguono le lezioni tranquillamente restando da casa. Sì, questo è vero. Durante la presentazione che io ho seguito mi ha colpito anche come lei e i suoi colleghi correggete i compiti. Sì, io correggo i compiti quando i ragazzi, io dico oggi correggo compiti, se dovete essere collegati in Skype o in rete, insomma, nel momento in cui io correggo il compito, chiamo il ragazzo, leggiamo, vediamo il compito, dato che lo mettiamo nella rete in Dropbox, lo possiamo guardare simultaneamente, lo correggiamo insieme, così loro mi spiegano cosa hanno scritto, perché se no non lo capisco, lo correggo immediatamente, do il voto, lo trasformo in PDF, glielo rimetto in rete e loro ce l'hanno immediatamente. Sì. Sentiamo Sergio da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno allo studio e agli ascoltatori. Io ti volevo fare una domanda ben precisa su quelli che sono i contenuti editoriali, in particolare sì, questa guerra dei grossi editori che hanno rallentato l'applicazione del decreto per l'obbligatorietà dell'adozione dei testi digitali. E poi mi vedo gli stessi editori che sono partner, i grossi editori che sono partner proprio di queste iniziative. Volevo domandare alla dottoressa come mai questo doppio binario. Ecco. Sergio, le dico però una cosa, visto che ho parlato con l'Associazione Italiana Editori proprio su questo tema. Allora, in realtà gli editori non hanno rallentato, ma hanno chiesto al Ministero di rallentare, che è un po' diverso, e sono soprattutto i piccoli editori che sono un po' preoccupati perché sono un po' più indietro, mentre i grandi mi risulta che sono più o meno pronti con i nuovi testi multimediali, diciamo. Sì, ieri io comunque grazie Sergio, grazie della domanda che è interessante. Sicuramente la necessità di avere dei libri di testo diversi, che non sono i PDF che abbiamo avuto fino a ieri appunto con Scuola Book, e gli editori se lo sono chiarissimamente posto, perché altrimenti non avrebbero avuto veramente più mercato. I grandi editori, ieri c'erano RCS, Mondadori, c'era Zanichelli e poi è venuta anche Pearson, hanno fatto vedere i libri interattivi che loro stanno proponendo e gli ambienti di apprendimento innovativi che loro stanno facendo. In effetti è un grande sforzo anche di studio di cosa poter fare. Infatti si collegano con noi proprio perché noi li aiutiamo anche a dare, cioè suggeriamo, sperimentiamo se i loro nuovi modi di proporre questi contenuti sono effettivamente funzionano oppure no, chiaro. Quindi è chiaro che ci vuole, è una rivoluzione totale. Sì. Sarebbe molto facile prendere il libro e trasformarlo in PDF e darlo e quindi in un anno l'avrebbero fatto nonostante il numero enorme, ma se loro devono rivalutare o destrutturare tutti i contenuti a fronte appunto di queste didattiche nuove, è chiaro che devono avere del tempo per poterlo fare. Tutto qui. Senta, visto che il vostro è anche un centro studi, sì, vi sarete posti il problema adesso? Non voglio una risposta, mi basta sapere che state studiando il dossier, poi magari sì, fra qualche mese, qualche anno ne sapremo qual è. Allora, in questo ambiente, in questo contesto che lei ci ha descritto, siamo di fronte a strumenti che sono proprietari, comunque che vengono fatti da poche aziende. Non solo dico i tablet, ma anche gli strumenti che lei ha citato, Skype, ha citato Dropbox, a parte il fatto che molti sono americani, ma questo è un altro capitolo, però effettivamente ci stiamo basando su cose che esistono nella realtà, ma che sono di proprietà di aziende. Ecco, questo non è un rischio, non solo in termini di privacy, perché effettivamente se una delle piattaforme, ad esempio, è Facebook, faccio per dire, insomma, sappiamo benissimo quanti dati noi infiliamo in queste piattaforme. È un problema che vi siete posti? Ce lo stiamo ponendo, assolutamente sì. E i ragazzi se lo pongono? No. Nel senso che i ragazzi non se lo pongono, però vede, lo sforzo più grande che noi stiamo facendo, proprio perché abbiamo all'interno di Impara Digitale degli studiosi della rete quali di Stefano Quintarelli, Marco Zamperini, cioè che sulla privacy e sulla il garante sono assolutamente attentissimi, no? Anche l'account dei ragazzi nel momento in cui ci danno la mail con cui interagire, eccetera. A parte noi Facebook non andiamo su Facebook, non facciamo didattica su Facebook, ma è chiaro che c'è anche un altro problema, che fino adesso la scuola correva dietro alle aziende, cioè mi si dava un tablet e io dovevo studiare tutto quello che il tablet mi offriva. Adesso lo sforzo che stiamo facendo è dire alle aziende cosa serve al mondo scuola e loro dovranno costruirci ciò che serve a noi. Non possiamo noi continuare a rincorrere le singole aziende, che cosa loro ci offrono, perché diventa tutto parcellizzato, è un macello. E poi i professori non hanno proprio né il tempo né le competenze e non possiamo pensare noi dobbiamo pensare a far didattica e non possiamo pensare ad una didattica e poi scopriamo che quella singola tecnologia non mi permette di avere alcune applicazioni. Quindi adesso il discorso con le aziende è proprio questo: noi, il mercato della scuola è diventato un mercato grandissimo, noi vi diciamo didatticamente cosa ci serve. Vediamo chi ci offre ciò che ci serve, sì, per poter fare questo. Senta, all'estero ci sono delle esperienze interessanti oppure no? Noi siamo monitorati adesso dall'Università Bocconi, i nostri studenti sono tutti monitorati dall'Università Bocconi, che prima di attivare questo monitoraggio ha fatto uno studio attentissimo a livello internazionale di che cosa esisteva, anche come studio di ricerca per la modificazione dell'apprendimento dei ragazzi, e loro hanno detto che non esiste a livello internazionale nessun metodo così strutturato e ingegnerizzato su larga scala, dove tutti quanti fanno gli stessi step di lavoro, tali da poter così dare dei risultati scientificamente validi. Infatti è per questo che loro ci stanno facendo questo monitoraggio, e a giugno penso che daranno i risultati per fare proprio uno studio di ricerca. E quindi questo mi fa pensare, me l'hanno detto loro, che all'estero ognuno faccia... Interessante, lanciamo un messaggio ai nostri ascoltatori: se conoscete esperienze all'estero interessanti, devo dire, certo, che io lo scorso anno sono andato in una scuola elementare americana. C'è anche la Finlandia. Ho visto due PC, ma mica la Finlandia, c'è anche tutta l'infrastruttura degli ambienti. La Finlandia è un paese strano, come dire la Lombardia, invece bisogna confrontarsi con paesi strutturati, insomma, fin troppo facile. Dunque, tra poco sentiamo Luca da Torino, adesso c'è la viabilità. 2024. Ultima parte di 2024 dedicata alla scuola digitale, un buon esempio di come la tecnologia può cambiare la scuola, ma anche per darvi il là, per poi studiare, documentarvi, dibattere, parlarne magari a cena con altri genitori. Luca da Torino, buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, niente, io mi sono sintonizzato adesso su Radio 24, sentivo che parlate di scuola, computer. Io volevo portarvi la mia esperienza. Io abito in un paesino vicino a Torino, Volgaro Torinese, e qui il comune ha dotato tutti i bambini dalla prima elementare fino alla terza media di un computer. Tutte le aule sono dotate di una lavagna, di una LIM, con la quale le insegnanti si connettono a internet e hanno fatto vedere come si va su Facebook, come si fanno i vari movimenti che si devono fare su internet, come si cercano le cose, eccetera. Quindi è una buona esperienza di come la tecnologia viene utilizzata. Sì, i libri comunque li abbiamo acquistati ugualmente, io ho uno che va alle medie e uno con le scuole elementari, abbiamo sempre libri, ma i libri sono parecchi, però il problema forse è che ci sono degli insegnanti che non sono in grado di utilizzare queste tecnologie. E questo è quello che abbiamo detto, infatti la professoressa Bardi dice... Parlava dell'esperienza della Lombardia, ma poi speriamo che in ogni regione si attivi la formazione degli insegnanti. Luca, grazie per essere intervenuto. Dunque, tra poco sentiremo anche altri ascoltatori. Volevo farle una domanda sulla... la vostra è una scuola pubblica, giusto? Sì, scuola pubblica. Scuola pubblica. Le istituzioni locali in qualche modo hanno partecipato finanziando, comprando cose oppure no? No, nel senso che i locali non hanno aiutato. Noi l'unico finanziamento che abbiamo avuto è stato questo del bando di Generazione Web, Ministero Regione Lombardia. Sì. Senta, a regime tutto ciò costa meno o costa di più? Perché è vero che i tablet costano molti soldi, però i tablet ce li portiamo avanti per almeno alcuni anni. Secondo me, insomma, si possono usare anche tablet un po' vecchi che in molti casi vanno ancora bene. E i libri digitali dovrebbero costare meno, o comunque quello che voi utilizzate non sono solo libri digitali, sono fonti che si trovano su internet. Allora, il discorso è in questi termini: se si fa una didattica, adesso anche gli editori, da quello che sento, stanno pensando a degli abbonamenti da fare alla scuola, da far fare alla scuola per accedere ai loro contenuti, quindi si sta affrontando questo problema, perché non è che tutti i professori ad esempio rinunciano al libro di testo, ci sono delle materie dove il libro di testo è assolutamente fondamentale, no? Quindi... Cioè, che sia digitale o di carta, però però costa, ecco, quindi, fatto in quel tempo. Quindi se adesso invece stanno pensando a queste forme di abbonamento per la scuola che dovrebbero ridurre anche, no, il costo di questi effettivi libri di testo. Ieri ho sentito il dottor Biondi del Ministero che diceva che dando i libri digitali si dovrebbe risparmiare 100 euro all'anno. Mi sembrano un po' pochi, si può risparmiare di più. Beh, il libro auspicherei. Sì, certo, ma il libro digitale teoricamente dovrebbe costare di meno rispetto al libro cartaceo. Però. Poi questo è un tema che affronteremo sicuramente altre volte, perché non vorrei che poi gli editori, non stampando carta, risparmiano 10 e a noi invece ci fanno risparmiare solo 8. Invece, prima di tutto non 5. Beh, io da quello che ho sentito ieri, c'erano tutti gli editori, gli investimenti che loro stanno facendo per rendere digitale e per trasformare completamente i loro libri è un investimento fortissimo a livello economico. Ma su questo economico, non c'è dubbio, diciamo che in questi anni gli investimenti ci saranno, però a regime sì, dovrebbero. Gastone da Cesena, buongiorno. Buongiorno, salve. Prego. Io volevo intervenire, guarda, sono un consulente informatico e mi è capitato di avere a che fare con qualche scuola a titolo gratuito, proprio dire, do in qualche maniera il mio supporto. Come gli insegnanti, vanno a formazione gratis, cioè gratis, pagando di tasca propria. Io ho la moglie insegnante, quindi è un tema che ho particolarmente a cuore. E quello che ho visto nella scuola pubblica è uno scollamento da... tutte le tipologie di tecnologie che vengono fornite, magari hanno tre LIM totalmente diverse l'una dall'altra, quindi non possono colloquiare l'una con l'altra, hanno il problema che internet non è filtrata, quindi anche erroneamente digitando qualche parola sui motori di ricerca standard può saltare fuori qualsiasi cosa, hanno il problema che il wifi c'è da qualche parte e da altre parti non c'è neanche. Secondo me c'è bisogno che l'infrastruttura nasca, ma nasca con l'ottica di avere una scuola digitale. Poi c'è il problema degli insegnanti, c'è il problema della formazione. E una parola magica che non ho sentito qui è open source. Qua apriamo un dibattito, Però allora, rimanga al telefono, che poi su questo sentiamo anche Matteo dalla provincia. Anzi, sentiamo prima Matteo, poi dopo chiediamo. Però Gastone, rimanga al telefono perché è interessante questo dell'open source. Matteo, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, lei chiama dalla provincia di Trento, che è una regione sensibile all'open source. Certo. Saluto Dianora Bardi che conosco. Sono Matteo Ruffoni, del movimento del software libero e dell'open source. Ecco, faccia della condivisione del sapere nella scuola italiana. Sì. Ecco, dopo i saluti, ci dica che cosa vuole. Dirvi che oltre alle case editrici, oltre ovviamente a chi giustamente produce materiale per la scuola, c'è un grosso movimento in Italia di insegnanti che come Dianora mettono del loro tempo per condividere il proprio sapere, che fa capo ai movimenti del software libero e dell'open source. Tra le varie cose producono materiale che si ritrova dentro Wikipedia, anche dei libri di scuola, cercando di seguire per esempio l'esperienza dei paesi in lingua anglosassone in cui c'è Wikipedia e poi c'è Wikipedia in simple English per le scuole. Dentro Wikimedia, per esempio, si sta tentando di scrivere dei libri a disposizione di tutti con le licenze giuste, perché il problema grosso sono le licenze libere, le Creative Commons, la possibilità che le persone scambino il proprio sapere al riparo da eventuali copyright. Tenete conto che c'è il primo libro di matematica adottabile nelle scuole, che è Matematica C3, che io ho adottato nelle mie classi perché sono anch'io un insegnante, e che è coperto da licenza Creative Commons. La mailing list che fa capo all'esperienza WildOS ha 400 membri che sono insegnanti, genitori, ragazzi. Lavoriamo e cerchiamo di contribuire con il nostro condivisione di sapere a far sì che la scuola si liberi. E come ha detto giustamente Dianora, molti di noi mettono il loro tempo gratuito. In questo momento sono a Mantova a un incontro di ILS, l'Associazione Italiana per Linux e Software Libero, in cui ci sono molti insegnanti e genitori che si occupano di propagandare nelle scuole la possibilità di avere software che permettono di fare lo stesso lavoro a casa e poi lo stesso lavoro che si fa a scuola a casa. Questo non è prerogativa di Linux, che si possa fare a casa quello che si fa a scuola. Comunque Matteo, grazie, magari scrivimi perché questo è un tema sicuramente interessante. Volevo dare la parola a Dianora Bardi, poi magari risentire Gastone, prego. Beh, prima di tutto il presidente di Impara Digitale, dopo le dimissioni di Stefano Quintarelli per problemi di altro politici, tipo politici, no? È Frida Brioschi, che è il presidente di Wikimedia. Quindi cioè, siamo Wikimedia che pubblica che, Wikipedia che Italia. È Wikipedia, sì, Italia. Sì. Quindi insomma, voglio dire, è chiaro che siamo tutti allineati. Noi abbiamo una eduteca dove abbiamo selezionato 4.600 siti che reputiamo scientificamente validi proprio, sì, per dare supporto. Quindi allora, sono tutte cose che noi già stiamo, sì, strutturando, sì, sì, e studiando. Certamente dico, sì, dico una cosa io. Allora, è auspicabile che appunto, ad esempio, Linux e i computer con Linux vengano adottati nelle scuole e ci sia anche chi capisce come utilizzare, so, questo è un problema. Però devo anche dire che fino ad oggi le proposte commerciali dotate di Linux, a parte Android, che però è un Linux particolare perché dietro c'è Google, non sono state affascinanti o comunque non funzionano come funzionano gli altri. E devo dire che poi se nelle famiglie vengono acquistati altri prodotti, la scuola deve anche un po' adeguarsi al mercato. Gastone, non sei d'accordo che, o non è d'accordo, dipende se ci diamo del tuo o del lei, ma che effettivamente Linux fatichi a trovare una strada nelle famiglie italiane? E ripeto, se nelle famiglie ci sono altri strumenti, poi la scuola fa fatica ad avere strumenti diversi. Purtroppo è un problema, secondo me, di cultura informatica. Ah, sì, sì, certo. Quindi nel e anche tempo, di mancanza del ministero che dovrebbe dire, sì, si fa Linux, sì, punto. Sì. Io devo dire una cosa. Mi è capitato, a proposito delle pagelle digitali, quindi parte dell'infrastruttura che serve, anche se è un po' a latere del dibattito, e anche qui c'è qualcosa di open source e dall'altra parte le aziende, comunque le scuole, comprano da aziende prodotti che, da detto i lavori, sono davvero di bassissima qualità e hanno il timbro e la certificazione del ministero, e questo mi fa tanta rabbia che non si riesca a coinvolgere, e io parlo anche relativamente all'educazione, a un progetto open source, perché mi sembra che si parli qui adesso di cose molto molto elevate, dal come si apprende i libri, come devono essere, però la scuola ha bisogno di partire, non di avere queste cose, sì, ha bisogno di avere Gastone, il computer, di spendere poco e iniziare a sfruttarlo. Sono d'accordo, però non allora. A parte che mancano 40 secondi alla fine della trasmissione, non sono d'accordo sul fatto che stiamo parlando di cose alte. Abbiamo parlato di un progetto che da tre anni almeno funziona, i ragazzi escono dalla scuola con la maturità, eccetera, eccetera. Quindi, però grazie Gastone, perché ha sollevato un punto importante, interessante. Dovremmo dedicare una trasmissione a questo tema, posto che poi esiste anche il mondo invece non open source. Io faccio un libro e ho diritto, insomma, anche di guadagnare dal mio libro. Grazie a Dianora Bardi del Liceo Scientifico Lussana di Bergamo. A presto e buon lavoro. Grazie a voi. www.imparadigitale.it per altre informazioni. Grazie ai nostri tecnici e a tutti quelli che ci hanno aiutato. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.